questa zona U per fare circolare meno macchine possibile. In realtà, essendo qua da 20 anni a lavorare, 25, secondo me è peggiorato, perché limitando il traffico di auto dà modo alle persone, spacciatori piuttosto che tossici, di sostare nelle stradine qui laterali, non passa nessuno e quindi trovano vita facile rispetto a prima, quando c'era più movimento di macchine, quindi c'era più passaggio. I residenti trovano parcheggio, quello sì, però il degrado è aumentato, secondo me. Anche la sola Piazza Verdi, quando c'era la possibilità per le macchine di passare, le persone non potevano sostare in mezzo alla strada o sedersi addirittura in mezzo alla strada. E questo succedeva anche la sera. Adesso il fatto che Piazza Verdi alla sera sia sempre piena di gente, che magari sta anche seduta per terra, è anche perché non c'è passaggio. Perché quando via Zamboni era percorribile, non potevi farlo. Passava l'autobus, passavano i taxi, passavano le macchine, e quindi c'era più traffico, quello è vero, però c'era anche meno degrado e meno schiamazzi. No, la sera, quando abitavo qua, c'era da aver paura. Per portare fuori il cagnolino, la passeggiata la facevo sotto il portico lì e basta, perché c'è veramente di tutto di sera qua. Già il pomeriggio verso le, quando chiudiamo verso le 6:30, così qua in via Acri, da una parte ci sono quelli che si drogano, dall'altra parte ci sono seduti sui gradini quelli che preparano le confezioni di droga, e io giro in mezzo alla strada, perché oltretutto hanno anche dei pitbull, per cui insomma c'è anche da aver paura. Cioè, loro non ti fanno niente, perché non devono continuare a fare il loro lavoro, però non è che sia molto bello girare, o sicuro girare in mezzo a questa gente.